Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di ciclismo. Però non parliamo di un grande campione, di uno che ha vinto giri d'Italia, mondiali, Milano-Sanremo. Parliamo di uno sportivo e di un ciclista, diciamo di seconda fascia dal punto di vista del palmarès, ma di prima fascia dal punto di vista del ricordo che ha lasciato e dell'affetto che tutti compagni e avversari avevano per lui. Un uomo molto semplice, il padre si chiamava Angelo e sceglie per lui il nome Vladimiro in onore di Lenin. In realtà Lenin si chiamava Vladimir Ilyich Ulyanov, però il padre, insomma, nella sua ingenuità contadina lo chiama Vladimiro. Il protagonista della nostra puntata di oggi è un Vladimiro, Vladimiro Panizza, il gregario per eccellenza. Miro lo chiamano tutti, quarto genito di una famiglia di umili origini, di Fornaci, una frazione di Fagnano Lona nel basso Varesotto. Una delle cose che già me lo rese simpatico quando ero bambino è che Vladimiro Panizza è nato come me il 5 giugno, anche se lui un po' prima, del 45. La guerra è finita, la guerra civile è finita, il nostro paese è in ginocchio e come molti figli di quell'Italia povera, lui lascia presto la scuola per andare a lavorare. Così descrive la sua infanzia Andrea Baci nel libro Il sogno interrotto di Miro Panizza. La famiglia, che già non se la passa benissimo, perde tragicamente il padre. Ed è il fratello maggiore che cresce materialmente il piccolo Vladimiro. Lui viene su come un ragazzino serio e rispettoso, segnato già dalla vita e dalle sue difficoltà fin da bambino. Il ricordo di questa infanzia dura gli farà sempre rispettare il denaro e la difficoltà nel guadagnarlo. E intanto inizia a praticare sport fin da giovanissimo. Anche se all'inizio pratica lo sport per lui sbagliato, perché come tutti gli adolescenti adora il calcio e quindi cerca di, insomma, di emulare le gesta dei grandi campioni di quei tempi, va addirittura alla Pro Patria di Busto Arsizio per alcune stagioni, però ha un fisico molto particolare perché è tarchiato, è alto 1,60 m, insomma è destinato ad altro. Il primo ad accorgersene è Enzo Negrelli, che è un fruttivendolo in realtà, però è lo storico presidente dell'Unione Ciclistica Cassanese, che rimane strabiliato nel vedere il piccolo Vladimiro affrontare le collinette della zona per recarsi al lavoro, naturalmente in bicicletta. Insomma, Negrelli gli parla, lo convince e così Miro Panizza approda al ciclismo nelle categorie giovanili. Ovviamente rimane basso, però comincia a dimagrire e ha un fisico asciutto, leggero, che non è certo fatto per le volate. È un grimper, cioè uno scalatore. Più è ripido il percorso e più lui diventa un avversario da prendere in considerazione. È anche una questione di carattere più che di prestanza, perché lui è uno scalatore puro perché ha l'animo del montanaro. È burbero, è brontolone, però è coriaceo, è battagliero, è uno che non molla mai, è uno generoso ed è sempre pronto a spendersi per gli altri. Insomma, diventa un gregario perfetto, però è un gregario di lusso perché lui ha anche la stoffa del campione e lo dimostra fin da subito. 20 maggio 1967, primo giro d'Italia di Vladimiro Panizza. Addosso la maglia della Vittadello, ha 22 anni ed è appena passato professionista. E quando la carovana arriva sulle Alpi, arrivano anche le tre cime di Lavaredo. L'8 giugno 67 si parte da Udine e le pendenze si fanno impossibile, è la classica tappa di montagna, il tappone di montagna, peraltro fa freddo, l'asfalto è viscido, insomma è una tappa molto dura. In montagna, soprattutto in quegli anni, i distacchi si possono accumulare a minuti, non a secondi, è un ritmo infernale, in salita può veramente stroncare anche un campione. Succede proprio questo perché Felice Gimondi, Eddy Merckx e Gianni Motta, che sono i tre uomini da battere, sono in visibile difficoltà nell'ascesa verso lo spettacolare traguardo dolomitico, vengono aiutati dai tifosi con spinte che vanno anche che oltre ai limiti del regolamento la giuria li squalifica, la vittoria va a un ciclista sconosciuto, a un gregario al suo debutto. Miro Panizza è l'unico a avere conquistato l'arrivo con la sola forza delle sue gambe, pedalata dopo pedalata. Io ero un bambino, però questa tappa me la ricordo. Mi ricordo anche il processo alla tappa, che era una trasmissione mitica condotta da Sergio Zavoli, una trasmissione nella quale potevi trovare tranquillamente un Mario Soldati, un Gianni Brera, un Pierpaolo Pasolini che parlavano con i ciclisti. Bene, siccome il potere è sempre il potere, nel momento in cui vengono mostrate le immagini delle spinte ai big, e il direttore del Giro d'Italia, il patron Vincenzo Torriani, cosa fa? Annulla la frazione per le irregolarità, penalizzando proprio quello che le spinte non le aveva ricevute, cioè il nostro protagonista Vladimiro Panizza. E lui piange di rabbia per quella decisione e dice così ai microfoni della RAI. E poi a 400 metri dall'arrivo mi vedo dei campioni spinti, attaccati alle moto, ero talmente quando sono arrivato all'arrivo che piangevo e i giornalisti gli davano risposte cattive. Il mio giorno di gloria. Il mio giorno di gloria non è stato, perché hanno tirato via tutto. Poi quando verrà negli albi del Giro d'Italia, quando ci sarà primo il tal dei tali, il mio nome non ci sarà. Eh sì, partiamo subito con una ingiustizia perpetrata ai danni dei deboli. La tappa delle Tre Cime di Lavaredo viene annullata e Vladimiro conclude il giro con un onorevolissimo 22esimo posto, però il destino è ancora beffardo con lui, perché pochi mesi dopo, durante un allenamento, un camion lo butta a terra, la sua ammiraglia lo investe, risultato: lacerazione dei legamenti del perone, frattura del malleolo, lesioni al bacino. Però Panizza è anche una persona paziente, dice che la vita a volte è dura, ma c'è sempre qualcosa di peggio. Ho imparato a accettare serenamente il bene e il male. E nel libro di Andrea Baci, la moglie ricorda così il suo carattere. Era un tipo schietto e durante la sua carriera pagò spesso questa sua caratteristica. Anche nel ciclismo imparammo sulla nostra pelle. Ci sono momenti in cui sarebbe meglio stare zitti. Il Miro non era ingenuo, sapeva bene quello che faceva e quello che diceva. Era troppo onesto. Qualche volta bisognerebbe saper nascondere i propri sentimenti, magari mordendosi la lingua. Vladimiro non ne era capace. Mai. Il falco e il gabbiano. Vladimiro Panizza, il nostro protagonista, nel frattempo incontra l'amore della sua vita. È evidente che per uno così l'amore è uno solo. Si chiama Maria Rosa e lei ricorda così il primo incontro nel libro di Baci. Un giorno lo beccai che passava in bicicletta insieme ad amici. Lo fermai e lui diventò rosso paonazzo dalla vergogna. Quell'estate andai a lavorare in una colonia estiva con i bambini del comune di Gallarate. Lui mi scrisse una lettera in cui diceva che mi voleva vedere. Una mattina, tornata dalla colonia, me lo ritrovai che mi aspettava qua fuori. E da lì è nato il tutto. All'inizio i miei non volevano, soprattutto mia madre, perché non capiva come sarebbe riuscito a mantenermi facendo il ciclista. «Sposati un operaio», mi diceva sempre la mia mamma, «che alla fine del mese prende lo stipendio». Altri infortuni e lui salta il giro del 68, è l'unico al quale non si presenterà al via in tutta la sua carriera. Nel 69 torna in sella alla Salvarani a lavorare e pedalare per Felice Gimondi, l'astro del momento. Con la squadra di Gimondi partecipa al Giro d'Italia, 16esimo, niente male per un gregario, e addirittura 14esimo al suo primo Tour de France. Nel 70 vince il Gran Premio di Monaco, si piazza 18esimo al Tour de France a solo 31 minuti e 2 secondi dal primo. Al Giro d'Italia si ritira. È proprio in questi anni che Miro si conquista, prima nell'entourage e poi tra il grande pubblico, il soprannome La Roccia, per la sua granitica resistenza alla fatica, che comincia a fare sì che lui si possa ritagliare un ruolo preciso: il gregario di lusso, il delfino del capitano. Filastrocca del gregario, corridore proletario, che ai campioni di mestiere deve far da cameriere. E sul piatto senza gloria serve loro la vittoria. Al traguardo, quando arriva, non applausi, non è viva. Col salario che si piglia fa campare la famiglia. E da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista o un baretto, anche più spesso, con la macchina per l'espresso. E questa era una bellissima filastroca scritta da Gianni Rodari, che rende omaggio a una delle figure più oscure ma più apprezzate, più romantiche del ciclismo. Il gregario è un ruolo che accompagnerà Panizza per la maggior parte della carriera, e quelli erano anni in cui il gregario non doveva solo assecondare il capitano in corsa facendo il treno, come si dice adesso, dove 5 o 6 ciclisti stanno davanti per proteggere dal vento e dalla fatica il capitano. Lì il gregario si fermava, riempiva le borracce, cedeva la sua gomma, la sua ruota al capitano se bucava, insomma faceva anche il lavoro sporco, perché lui, il ciclista di Fagnano Olona, è non solo uno che non molla mai, ma è uno che ama sacrificarsi per gli altri, dà l'anima per il suo capitano fino allo sfinimento, tira sulle montagne, deve ricucire gli strappi, no? Quando il gruppo si spezza in due sono i gregari che vanno a tirare affinché il loro capitano rientri nel gruppo di testa. La sera magari è distrutto, ma la mattina seguente è di nuovo pronto a aiutare i compagni. Insomma, Miro è un esempio di generosità, un uomo tutto ad un pezzo che non tradirà mai quel soprannome, la roccia. Lo onora con una longevità sportiva da primato, nonostante la vita, quella vera, ahimè, sarà troppo breve. Bacci ricorda così nel suo libro la tenacia e la abnegazione di Vladimiro Panizza. Si adopera in allenamenti al limite dello sfinimento. Parte prima degli altri, con qualsiasi condizione atmosferica, e continua ancora quando i compagni smettono. Diventa famoso nell'ambiente, soprattutto nel Varesotto, come un duro dal carattere particolare, rognoso e schietto, un vero asceta della preparazione fisico-atletica. Anche a casa passa delle ore sulla bicicletta, con in mano la chiave inglese, a fare su e giù, alzare e abbassare il sellino, provare le marce e controllare le gomme. Insomma, il ciclismo in quegli anni è nel pieno del immaginario collettivo. Il ruolo del gregario è un ruolo comunque ritenuto affascinante, pieno di aneddoti, tanto che il gregario compare addirittura nei caroselli, come quello per pubblicizzare la maglieria Moville, e il protagonista era un giovane Gino Bramieri. Gino Bramieri, il gregario. Non ce la farà mai. Per forza, quello non è un gregario come me. Non mi dire che hai fatto anche il gregario. Ma io ero il re dei gregari. Mi battevo come un leone. Ero un corridore scientifico. Non mi sbagliavo mai nei rapporti. Per me, su questa strada, il rapporto migliore è il 47-32. E tu, che rapporto preferisci? Il rapporto sentimentale. Ma a parte gli scherzi, io ero veramente uno specialista del cambio. Come cambiavo io, non cambiava nessuno. Mi temevano tutti, e appena mi vedevano cambiare si buttavano all'inseguimento. Ehi, ladro di biciclette! Arriva l'anno 1971, Miro è nono al Giro d'Italia. Nel 72 arriva addirittura quinto, a 13 minuti dalla maglia rosa, che naturalmente è Merckx. È il primo degli italiani, è il primo della sua squadra, che nel frattempo è la Zonca, è diventata. Grazie a questi risultati arriva ai campionati del mondo su strada. Si corre a Gap in Francia, è un circuito favorevole più agli scalatori che ai velocisti. La nazionale italiana comanda la corsa, e poi avviene un episodio terrificante del quale parleremo un giorno o l'altro. Bitossi, che arriva nel rettilineo finale da solo e poi viene rimontato dal gruppo, e vince Marino Basso. E nel gruppo che rimonta c'è anche Panizza, che arriverà undicesimo. E i posti di frontiera sono porte spalancate per guardare in lontananza. Nel 73 passa la GBC, terzo al Giro di Svizzera, conquista il Giro della provincia di Reggio Calabria, una tappa al Giro di Catalogna, al Giro di Romagna, ottiene anche una sesta posizione nella graduatoria finale del Giro d'Italia. Lui, gregario, riesce comunque a non farsi staccare, perché in genere i gregari magari lavorano fino a 20 km dalla fine e poi si beccano 30 minuti. Lui all'arrivo arriva sempre tra i primi. Sesto al Giro d'Italia per un gregario è veramente un exploit. Lui a questo punto ha 28 anni, un ciclista maturo, e dimostra a tutti che la grinta e la tenacia sono il suo marchio di fabbrica. poi approda al Brooklyn, è una squadra amatrice soprattutto belga e i campioni sono Roger de Vlaeminck e Joan de Muynck. Nel 74 è tra i protagonisti al Tour de France, sfiora il successo nei 241 chilometri della Besançon-Gaillard e arriva dietro solo a Eddy Merckx, chiude quarto in classifica finale a 10 minuti e 59 dal Cannibale, dal grande campione belga. Ecco la telecronaca della nona tappa alla TV francese. Si è passato in testa devant Merckx, Poulidor, Agostinho e Panizza. E questi 5 coureurs sono praticamente regroupés dans la descente maintenant. Vous les voyez sur ces images de Jacques Laviron, conduit par Serge Jacquard. Nel 75 si dedica anche al ciclocross, vince i campionati italiani, poi vince la sua prima tappa al Giro d'Italia da Pontoglio a Monte Maddalena nel Bresciano e poi si aggiudica la vittoria che ricorderà con più affetto, quella della Milano-Torino del centenario. Lui scatta deciso e giunge sul traguardo piemontese in solitudine con 55 secondi di vantaggio su Enrico Paolini al comando di un gruppo che comprende tutti i big dell'epoca, dal compagno di squadra De Vlaeminck a Francesco Moser, all'ormai vecchio Felice Gimondi, a Jani Hansen. E oltre alla sua attività agonistica, lui si dedica anche al volontariato per l'associazione ciclisti, lo ricorda la moglie Maria Rosa. Se i corridori di adesso percepiscono una pensione, è anche per merito di mio marito, che si spese molto in questa battaglia a livello personale, attirando ancora su di sé parecchie antipatie. Era uno che esponeva la sua faccia. Se talvolta c'erano delle tappe pericolose, era sempre tra i primi ad andare in testa al gruppo e nel caso fermarlo. A 31 anni, nel 76, Miro firma un altro contratto, passa alla Chic di due emergenti di cui si sentirà parlare, Giovan Battista Baronchelli e Beppe Saronni, quella che si apre forse l'annata che gli riserva una delle più grandi soddisfazioni della carriera, perché intanto vince per il secondo anno di seguito i campionati italiani di ciclocross, arriva sesto al Giro d'Italia e poi si presenta al via del Tour de France e si mette subito in luce. L'8 luglio è terzo sul traguardo di Pirenei 2000, il giorno successivo arriva secondo a Saint-Gaudens. Passano due giorni e l'11 luglio Miro Panizza, quello di Fagnano Olona, arriva in Francia e firma la prima impresa che lo consacrerà nell'Olimpo del ciclismo. Perché lungo i 195 chilometri pirenaici tra Saint-Léry-sur-Lens e il classico traguardo di Pau, Panizza decide di scatenare la bagarre sull'Aubisque, che è una delle grandi ascese che hanno segnato la storia del Tour, della Grand Boucle, in mezzo a una tormenta di neve. E scappa con altri cinque, aggancia i due fuggitivi che si chiamavano Giuliani e Labourdette, poi accelera con forza negli ultimi metri della salita, transita per primo in vetta al Gran Premio della Montagna, si tuffa in discesa, che peraltro è una delle specialità che meno gli si addicono, e il suo vantaggio sale, gli permette di trionfare a Pau dopo oltre 80 km di fuga quasi interamente in solitaria. Chiuderà il tour tredicesimo a mezz'ora dalla maglia gialla del belga Lucien Van Imp, un altro scalatore, ma lascerà un segno indelebile nella storia e nell'albo d'oro del Giro di Francia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una strana ma affascinante storia. Vladimiro Panizza, detto La Roccia, un capitano mancato, un gregario di lusso che per una carriera peraltro lunghissima è stato al fianco di gente come Felice Gimondi, Roger de Vlaeminck, di Moser, di Saronni. Lui sta invecchiando, ma continua a migliorare. Ancora nel 77 è quinto al Giro d'Italia, a meno di 8 minuti dalla maglia rosa che fu il belga Pollentier. L'anno seguente vince al Giro d'Italia un'altra tappa, la Cavalese Monte Boldone in Trentino. Arriva quarto in classifica generale, primo della sua squadra che è diventata la Vibor. E va detto che in 20 anni sono pochi i ciclisti che hanno avuto una tale regolarità nel piazzarsi sempre, diciamo, tra i primi 15 della classifica generale. Il Giro d'Italia del 79 peraltro è un tour particolare perché caratterizzato dalle cronometro, sono 4 più il prologo. Tutte queste tappe sono vissute sullo scontro frontale fra Francesco Moser e Giuseppe Saronni. Ed è stata subito maretta. Ci sono state anche delle polemiche fra i due. In ogni volata hanno cercato di superarsi. Ecco la preparazione alla volata. Tutti gli uomini di Moser e di Saronni sono nelle prime posizioni. Eh sì, perché Saronni e Moser, pur essendo due che aspiravano alla vittoria finale, le volate le facevano e come, e si detestavano anche abbastanza, quindi non era facile per un gregario gestire gli ultimi chilometri, soprattutto quando il gruppo è compatto, quindi quando c'è un grande affollamento. Comunque sarà Saronni a vincere il giro del 79, naturalmente davanti a Francesco Moser. In quel giro Panizza, che è uno scalatore, quindi poco adatto alle cronometro, non brilla, arriva tredicesimo. Comunque si rifà nell'edizione successiva, quando scrive la seconda pagina leggendaria della sua carriera sportiva grazie a uno stato di forma strepitoso e il suo secondo colpo d'ala. Eh sì, perché lui ormai ha 35 anni, si avvicina all'età della pensione, e quando inforca la bicicletta per i 7 km del crono prologo di Genova del Giro d'Italia dell'80, non ha certo in mente che potrebbe diventare un protagonista. Le star sono altre e sono più quotate e soprattutto più giovani. Naturalmente i riflettori sono ancora per loro due, Francesco Moser e Beppe Saronni, il capitano della GIS Gelati, la squadra di Panizza. Però c'è anche un bretone che si chiama Bernard Hinault, è il vero fuori classe del momento, è detto il Tasso per la sua capacità di nascondersi nella pancia del gruppo come se fosse una tana e poi uscire all'improvviso. È lui che il 20 aprile sotto la neve ha appena vinto la Liegi-Bastogne-Liegi dell'80. Solo 21 ciclisti sui 178 partecipanti hanno concluso quella corsa così dura, e tra loro nessun italiano. Il vantaggio di Bernardino è di 9 minuti nei confronti dei più immediati inseguitori a 9 minuti. Una Liegi, Bastogne-Liegi, che verrà ricordata per le terribili condizioni atmosferiche. Tranne Contini si sono ritirati tutti gli italiani. Io provo sempre la pelle d'oca quando sento la voce di Adriano De Zan. Comunque, 15 maggio inizia il Giro d'Italia. Panizza è il principale gregario del suo conterraneo Beppe Saronni. Lui stima il suo capitano, vorrebbe vederlo in maglia rosa a Milano. Saronni sta macinando una raffica di vittorie in volata, ma non sta incidendo sulla classifica generale perché il giro inizia nell'ultima settimana. Saronni arranca, perde minuti su minuti, scende di posizioni. Miro non molla. Tra le montagne abruzzesi lui si alza sui pedali, è l'unico capace di resistere al ritmo infernale imposto da Hinault. Sostenuto da Saronni, che a quel punto quasi diventa il suo gregario, decide di provarci. Scatta, è la 14ª tappa, Foggia Roccaraso. E lui, grazie al vantaggio accumulato, va in testa alla classifica generale. Per la prima volta nella vita indossa la maglia rosa del leader della corsa, quella che sogna da sempre. Bernard Hinault è rimasto dietro. Sono riuscito a 35 anni a prendere la mia maglia rosa, per me è il più bel sogno che possa avverarsi per me. Però, e sono contento, domani anche se la perdo. In questo momento mio figlio mi dirà: ma non è vero, mio papà non è vero. Ieri sera mi ha detto: oi, t'ho visto, chissà mai che prendi la maglia rosa. E oggi l'ho presa, sono contento, ecco. Per 6 giorni il ciclista di Fagnano Olona, l'eterno gregario benché di lusso, Vladimiro Panizza, rimane davanti a Hinault. Quasi comincia a credere nella vittoria, inizia a sperare nell'impossibile, però la doccia fredda è dietro l'angolo. La Sirmione, la moglie Maria Rosa, il figlio Massimiliano, che lui sentiva tutte le sere altrimenti non si addormentava, gli fanno una sorpresa e vanno a trovarlo. Così racconta Maria Rosa. Era stato Adriano De Zan a volere fortemente il nostro arrivo a Sirmione. Mio marito ne fu felicissimo e mettemmo su un bel teatrino per la televisione, che ebbe grande successo. Lui si divertì con nostro figlio, cui fece vestire anche la maglia rosa. La famiglia aveva un valore importantissimo per mio marito, direi fondamentale. Era il corridore che spendeva di più in telefonate. Mi chiamava la mattina presto, prima di partire, dopo l'arrivo, la sera e qualche volta anche con qualche radiotelefono delle ammiraglie. Io mi arrabbiavo con lui perché spendeva troppo di telefono, ma lui al solito aveva il suo sistema. Era un bravissimo giocatore di carte e vinceva i soldi per il telefono, proprio giocando la sera con i colleghi. Diceva che con le carte si guadagnava i soldi per gli extra e non toccava per niente lo stipendio. Ventesima tappa, la terz'ultima, la più dura del giro. Si va da Cles a Sondrio per 218 km, dal Trentino alla Valtellina. E sulla salita verso i 2700 metri del Passo dello Stelvio in Oggioca d'Astuzia. Prima lascia fare l'andatura a Miro, lo vuole sfiancare, poi con l'aiuto dei suoi gregari fa il vuoto dietro di sé, stacca tutti. Lui non ha più tempo per recuperare, perde la maglia rosa, due giorni dopo chiude il giro a Milano al secondo posto. È la sua grande prestazione sportiva, la più grande di sempre, però coincide anche, come ahimè a volte accade, con la più amara delle sconfitte. Ci sarà riparo al vento lungo questo parfait. Miro però, prima che un atleta, è un uomo normale, è alle prese con le difficoltà quotidiane di tutti, un uomo che sa di essere umile, che dopo aver sfiorato il cielo con un dito torna coi piedi per terra. In un'intervista a fine giro svela che sta studiando per prendere la licenza media. Cosa è cambiato in te in questo mese? Tuo figlio sarà orgoglioso, verrà promosso con 10 di media. Anch'io devo andare a fare un esame questa settimana. Ah già, la licenza media. Perché a me mi serve per il domani ormai prossimo. Il 1980 regala un'altra soddisfazione a Miro Panizza, un quarto posto al campionato mondiale su strada di Sallanche in Francia, ancora alle spalle di Hinault che vincerà e di Baron Kelly. È un quarto posto che rappresenta la prestazione più significativa delle sue cinque partecipazioni iridate in azzurro e peraltro era su un percorso molto duro. Nell'81 vince il Giro del Friuli, si ritira dal Giro d'Italia per la seconda volta in carriera. Nell'82 vince ancora a Siracusa e sull'Etna e nell'83 a 38 anni suonati chiude ancora al decimo posto il suo sedicesimo Giro d'Italia, primo della sua squadra, la Atala, a 12 minuti dal vincitore Saronni. Lui continua a pedalare, a correre, però ormai il tempo delle grandi imprese è passato. Nell'85 tra i 180 ciclisti al via a Verona, nel 68esimo Giro d'Italia c'è ancora lui con la maglia dell'Ariostea, 18esimo Giro d'Italia, 16 dei quali portati a termine, è un record che non è stato ancora battuto. Dei suoi 18 giri, 9 li ha conclusi tra i primi 10, pur correndo non pro domo sua ma per aiutare i capitani. Nell'85 arriva 28esimo, mettendosi dietro decine di atleti più giovani di lui, e nell'ottobre dello stesso anno, a 40 anni compiuti, il brontolone del pedale appende la bici al chiodo dopo il Giro di Lombardia. Chiuso una carriera di 19 anni di professionismo. Ma a questo punto voglio sentire una delle persone che più ci hanno guidato all'interno di questo percorso grazie al suo libro. Voglio sentire Andrea Bacci. Buongiorno Andrea. Buongiorno Enrico, buongiorno. Intanto il carattere di Vladimiro, com'era? Era veramente un brontolone, un sindacalista, uno che si batteva per gli altri? Che tipo era? Vladimiro Panizza è stato un uomo che ha messo la bicicletta prima di tutto. Viveva per il ciclismo, diciamo che si è fatto interprete di un tipo di sport, un tipo di ciclismo che adesso non c'è più. Lui, se vogliamo, è stato l'ultimo dei romantici, sì, perché è passato dal ciclismo romantico al ciclismo dei fenomeni e dei, non dico dei robot, ma comunque sia, con Hinault certo nasce un altro tipo di disciplina. Senti, quali sono le caratteristiche del gregario, fisiche ma soprattutto mentali? Il gregario perfetto è una persona che, nonostante abbia i mezzi anche per fare il capitano, come certo era quella del Panizza giovane, si mette a disposizione perché deve aiutare uno che palesemente nella sua squadra è più forte di lui. È l'uomo di punta, certo. Ci vuole una disciplina, un'autodisciplina enorme. non penso solamente a Panizza, ma penso ad anche altri, tipo c'era Conti, che era l'uomo preferito di Pantani, era uno che probabilmente, non ci fosse stato Pantani, avrebbe fatto quasi quello che ha fatto Pantani. Però sono uomini, e Panizza è stato proprio l'emblema del gregario classico, che anche quando hanno avuto l'occasione di trovarsi in classifica in una classica oppure in una corsa, anche messi bene per vincere, si sono sempre guardati dietro se a volte non c'era il loro capitano, e hanno chiesto sempre il permesso anche di andare a vincere. Quando il gregario può diventare capitano, anche solo per un attimo, per una corsa, per una tappa? C'è il caso, quello storico è quello del Giro d'Italia del 1940, con un giovanissimo Fausto Coppi, certo. Un ciclista del tutto sconosciuto al momento. Deborda, perché lui doveva semplicemente portare le borracce a Bartali. Bartali in una delle prime tappe si inchioda e la squadra lascia libera i ragazzi, i gregari, di fare la loro corsa. Certo. E Coppi c'ha una bella tappa sulla Betone, parte, prende la maglia rosa, vince quel Giro d'Italia e poi diventa Coppi. E nel caso di Panizza è stato... i risultati sono ovviamente diversi, però è stato un caso simile, con Saronni ormai fuori dalla classifica, certo. Panizza che era entrato in un paio di fughe, che si era trovato in buona posizione di classifica, e gli fu permesso, sempre tra virgolette, di fare la sua corsa e di giocarsi le sue carte. Ma forse Panizza quel giro con il non lo perse proprio perché non aveva la mentalità del capitano? Quando lui ha tirato sulla montagna, ha fatto una cosa da gregario mentre doveva fare il capitano? Probabilmente sì, ma a parte non ci sarà certamente più la riprova, anche perché... Sì. La controprova, tipo, forse Saronni non si mise a disposizione come avrebbe dovuto, forse certo. Non trovò collaborazione negli altri ciclisti italiani. Certo è che Bernardino certo. è uno dei più grandi ciclisti, uno dei cinque primi ciclisti degli ultimi 40 anni, era un fenomeno. Lo so. Era un uomo che se decideva di fare la corsa, faceva la corsa, e ci poteva essere 10 Panizza alla ruota, ma avrebbe vinto sempre lui. Certo. Andrea, intanto nel farti i complimenti non solo per questo libro, ma per i tuoi libri, e io sono uno dei tuoi lettori, volevo ringraziarti molto perché ci hai aiutato a capire di più questa figura così interessante, tenera e simpatica del ciclismo di qualche tempo fa. Grazie Andrea. Sono io che ringrazio voi. Ciao Enrico, grazie. Avendo però il ciclismo nel sangue, lui non abbandona l'ambiente, continua a lavorare come allenatore per varie squadre dilettantistiche, lo abbiamo visto anche come starter al Giro d'Italia con la bandierina qualche volta, insomma è faticoso abbandonare un ambiente che ti ha dato così tanto. Lui si allontana solo quando, diciamo, l'abuso delle sostanze dopanti comincia a prendere piede anche nelle categorie giovanili, insomma è come spesso accade, non riconosce più il suo ciclismo, e il 21 giugno del 2002 il cuore generoso che non aveva mai smesso di dargli forza e coraggio su tutte le salite più dure, dalle Alpi ai Pirenei, da qualche tempo questo cuore gli dava dei problemi e lo tradisce, muore ad appena 57 anni. Negli ultimi giorni di vita, presagendo la fine, andava dagli amici fidati e diceva loro che nel caso gli fosse successo qualcosa, riferissero a Maria Rosa di vendere tutto, mollare la vita quotidiana e andare a godersi la vita in giro per il mondo. Maria Rosa i viaggi grandi non li farà mai, rimarrà a casa col figlio Massimiliano, col suo nipotino Pietro Vladimiro, che nascerà nel 2006. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato il segno, e persone che magari non hanno occupato stabilmente gli albi d'oro, non sono arrivate prime o sono arrivate prime solo qualche volta, però hanno lasciato un grande ricordo, un ricordo di dedizione, di fatica e di cuore. È il caso emblematico e tenerissimo di Vladimiro Panizza. Se volete mandare dei vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a cercarmi nei miei social, nei social del Falco il Gabbiano, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.